su una zattera. Fissi il cielo su di te, rivedi tutti i tuoi compagni come piombi andare giù. E cerchi un senso a tutto ciò. Speri quanto basti per non impazzire. Speri un aiuto che ti porti via. Pensi che stavolta non ci riuscirai. Speri ad un senso tutta questa follia. Sono come l'ultimo uomo della terra. Sogni una sirena che ti salvi da questo mare. Tuo passato, le tue conquiste perdite, è la scelta che ti ha portato qui solo su una zattera. E ti accorgi che i tuoi sogni come piombi vanno giù. Speri un aiuto che ti porti via. Pensi che stavolta non ci riuscirai. Speri abbia senso tutta questa follia. Unico superstite di una folle. Prendi forte per poterla un giorno raccontare.